Le cagne si rifiutano di servire, onorare e obbedire. Pertanto, se preso sul serio, una cagna è una minaccia per le strutture sociali che tengono le donne schiave e i valori sociali che giustificano il mantenimento delle donne al proprio posto. È la testimonianza vivente del fatto che l'oppressione della donna non deve esistere per forza e che come tale solleva dubbi sulla validità di tutto il sistema sociale, poiché è una minaccia, non viene presa sul serio, viene invece derubricata come deviante. Le cagne non sono solo oppresse in quanto donne, ma anche per non essere come le donne, perché ha insistito per essere prima umana che femminile, di essere fedele a se stessa prima di inchinarsi alle pressioni sociali. Una cagna cresce da outsider. Tutte le cagne hanno rifiutato, nella mente e nello spirito, di conformarsi all'idea che esistano dei limiti a ciò che possono essere e fare. Non hanno messo limiti alle proprie aspirazioni o alla propria condotta. Per questa resistenza sono state duramente condannate, sono state ridotte al silenzio, snobbate, derise, chiacchierate, schernite e ostracizzate. Una cagna ha una mente tutta sua e vuole usarla, vuole eccellere, essere creativa, assumersi responsabilità. Quando si scontra con l'incrollabile muro dei pregiudizi sessuali non si conforma, si annienterà piuttosto a pure riscontrarsi contro quel muro, perché non può accettare il ruolo scelto da altri per lei di ausiliaria. Di tanto in tanto riuscirà a aprire un varco, utilizzerà il proprio ingegno per trovare una scappatoia, o ne creerà una. Alcune si rendono conto che il dolore non deriva solo dal loro non essere conformi, ma dal loro non voler conformarsi. Da ciò deriva la consapevolezza che non ci sia nulla di particolarmente sbagliato in loro, semplicemente non possono adattarsi a questo tipo di società. Molte, infine, imparano a isolarsi in un ambiente sociale così duro. Le cagne possono diventare così indurite e callose che le loro ultime vestigie di umanità saranno sepolte nel profondo e quasi distrutto. Le cagne sono le meno celebrate degli eroi, meno celebrate in questa società. Sono pioniere, avanguardie, punte di diamante. Sia che desiderino o meno di coprire questo ruolo, lo realizzano essendo semplicemente se stesse. Coloro che violano i limiti li ampliano o causano falle nel sistema. Le cagne sono per definizione esseri marginali di questa società. Non hanno un proprio posto e in ogni caso non lo occuperebbero. Sono donne, ma non vere donne. Sono esseri umani, ma non di sesso maschile. Come la maggior parte delle donne, è stato insegnato loro ad odiare se stesse e a odiare tutte le donne. Interiorizzare un'idea di sé negativa si traduce sempre in una buona dose di amarezza e risentimento. Questa rabbia di solito è rivolta contro di sé, rendendo una persona sgradevole su altre donne, rafforzando perciò gli stereotipi sociali. Solo attraverso la coscienza politica e la rabbia rivolta all'origine del problema, il sistema sociale. Le cagne devono formare un movimento per affrontare i problemi in maniera politica, organizzare la propria liberazione come tutte le donne devono organizzare la loro. Dobbiamo essere forti, dobbiamo essere militanti, dobbiamo essere pericolose, dobbiamo renderci conto che cagna è bella e non abbiamo nulla da perdere, niente di niente.